Va bene, un saluto a tutti, resistete allo stremo, al freddo, all'inospitale clima milanese. L'incontro di stasera fa seguito a una ben riuscita iniziativa che si è svolta all'inizio dell'estate. Allora si trattava di un incontro tra Redacta, quindi la componente dei lavoratori nell'editoria di Acta, con i lavoratori del magazzino di Messaggerie, che stavano portando avanti una lotta significativa nella logistica, in quella parte della logistica che fa circolare i libri. E quindi l'incontro fu chiamato Cartalotta, il libro nelle mani di chi lo lavora, dalla redazione al magazzino. E successivamente i compagni e le compagne di Redacta hanno chiesto di fare un approfondimento sulle esperienze di editoria militante, le tante esperienze editoriali di base legate al movimento dei primi anni 70, e abbiamo proposto noi, parlando anche delle strutture di distribuzione di questi materiali, perché si trattava di esperienze che cercavano il modo pratico per manifestarsi ed esistere nella società, e quindi miravano anche non solo a produrre e far circolare delle idee, ma a dotarsi di strutture, allora erano chiamate strutture di servizio, che permettessero praticamente l'azione. Ecco, quindi io racconterò un po' brevemente le vicende della Calusca e della Punti Rossi. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi Giancarlo Mattia, figura di spicco dell'underground italiano da allora fino ad oggi. Io potrò dirvi delle cose a partire dalla mia esperienza, simile a quella di tanti altri ragazzi che passavano in Calusca a cercare materiali che potessero alimentare la loro curiosità, le loro passioni, rispondere alle loro domande. Giancarlo Mattia invece queste esperienze le aveva vissute fin dall'origine, ancora da prima del 68, e quindi potrà dirvi molto meglio di come possa fare io. Ecco, incomincerò leggendovi un breve testo, un brano che si era pensato già di usare in quell'incontro, ma poi non era il momento, non era l'occasione giusta, e cioè uno scritto uscito a firma del comitato di base il Saggiatore Mondadori, perché molti conoscono, almeno per sentito dire, un'esperienza importante di quel periodo a Milano, il comitato unitario di base della Pirelli. Ma non si trattava solo della Pirelli, ci furono altre esperienze consimili, e una di queste si produsse all'interno della casa editrice Il Saggiatore, giusto appunto. E siccome so che molti di voi lavorano lì, può essere interessante partire da questo breve testo, che si intitola Da culturale ruspante a burocrate d'allevamento. È un testo scritto da Giorgio Cesarano, che partecipò a questa esperienza. Tra l'altro, di recente siamo riusciti a recuperare vari altri testi prodotti dal comitato di base Saggiatore Mondadori, che allora furono editati grazie alla collaborazione del grande poeta bolognese Roversi. e che quindi poi posso farvi avere. Ecco. In questo testo Cesano parte dall'inaugurazione della nuova sede di Mondadori a Segrate e scrive: Mondadori ha deciso di portarvi in campagna per farvi respirare nebbia e zanzare, lontano dalle tentazioni e dalle contestazioni. Le stie del nuovo centro residenziale culturale saranno perfettamente attrezzate secondo il canone della speculazione edilizia. Il centro sarà provvisto inoltre di un moderno auditorio dove potrete ascoltare la conferenza dello scrittore di cui avete corretto la punteggiatura nel pomeriggio. E ci saranno poi tratta della funzione che il lavoratore culturale andava a svolgere in quello che di fatto per l'Italia era il momento del passaggio alla strutturazione industriale dell'industria culturale, che in precedenza aveva avuto una dimensione semi-artigianale, e coglie, secondo me, bene le conseguenze che questo passaggio ha per quelli che lui definisce i proletari della cultura. Le vostre scrivanie sono la vostra catena di montaggio. Non esiste altra cultura che la cultura del sistema. La cultura non è conoscenza, la conoscenza è solo nella lotta. L'alienazione è progressiva e irreversibile. Il tempo è contato. Marmittoni e sergenti della cultura, ammutinatevi. Agite con astuzia e colpite basso. Ecco, questa è una enunciazione secca che dà conto del clima di allora. Del clima che si respirava in Italia in quello che sarà definito il lungo maggio o ancora l'ancor più lungo autunno caldo, destinato a durare per tutto il decennio successivo. Questi stessi temi, poi Cesareo li sviluppa in un testo teorico importante che si intitola La fabbrica della persona. Significativo è che queste cose lui le scriveva non a titolo individuale, ma come espressione di un collettivo di lotta, quindi insieme ad altri lavoratori di quella branca della produzione nella quale lui stesso ai tempi lavorava, perché sapete che ai tempi era direttore editoriale alla Rizzoli, poi velocemente avrebbe rotto tutti i ponti con l'industria culturale per dedicarsi solo prima all'attività poetica e teorica, poi successivamente solo all'attività teorica. Ecco. Questa è una citazione che ho voluto proporvi per porvi nel clima in cui originano e sono possibili le esperienze che cercheremo di illustrare questa sera. È del febbraio 69. Quindi Calusca vuol dire, innanzitutto, come sapete, Primo Moroni, ma non solo Primo Moroni, perché in realtà si forma un collettivo che assume come nome Gruppo di Lavoro Antonio Gramsci, che ancora prima di dar vita alla libreria, la libreria nascerà nell'inverno 71-72, ancora prima della nascita della libreria si propone di far circolare nelle scuole, presso gli insegnanti, quest'opera che vi mostro, l'enciclopedia Io e gli altri, che era stata appena prodotta da un collettivo di lavoro di storici, ricercatori, soprattutto genovesi, pubblicata da un ex partigiano, Angelo Ghiron, e che appunto il gruppo di lavoro Antonio Gramsci voleva far arrivare nelle scuole, dentro un'attività molto estesa, di critica al libro di testo tradizionale, all'unicità del manuale, a sostegno delle varie esperienze di didattica alternativa, di impostazione diversa del rapporto tra scuola e società, tra adulti e bambini e adolescenti. Questa era un'enciclopedia rivolta alle scuole medie. Molto interessante, perché si trattava della prima enciclopedia a impostazione interdisciplinare, che era sviluppata per grossi campi tematici, non alla maniera tradizionale, l'ordine alfabetico delle enciclopedie, e che soprattutto poneva al centro le questioni dell'attualità politica, sociale e i rapporti familiari. La cosa funzionò parecchio, al punto da entrare nell'attenzione dei ministeri. Fu fatta ritirare dalle scuole, ne seguì anche un processo per vilipendio all'istituzione. Insomma, si capisce che non era un'iniziativa editoriale tra le altre. Era un progetto ambizioso, perché era una vera e propria enciclopedia in più volumi, ma che proprio attingeva alle esperienze di critica della cultura e della trasmissione dei sapere. Lo stesso gruppo poco tempo prima aveva realizzato una indagine sui libri di testo, sui manuali di storia in uso nelle scuole, portando in evidenza come fossero pieni zeppi di cascami delle ideologie fasciste, nazionaliste, tradizionaliste, ultraconservatrici di tutti i tipi. Anche questo lavoro portò loro un bel po' di problemi. Ecco, per far capire come quanto si riusciva a portare sulla carta fosse direttamente legato alle esperienze di lotta e di critica sociale ampia, perché il lungo maggio, il lungo autunno caldo in Italia non solo avrebbe avuto la durata che vi ho detto, ma avrebbe avuto un'estensione, una pervasività nella società che ha pochi eguali a livello internazionale. La contraddizione maturata nelle università, poi nelle fabbriche, via via si andava estendendo a tutti i gangli della riproduzione sociale. E quindi cresceva anche l'esigenza di dare espressione a queste voci, a queste istanze, a queste possibilità di vivere e articolare diversamente i bisogni, i desideri presenti nella società. Ecco, a questa esigenza il gruppo di lavoro Antonio Gramsci e Primo Moroni in particolare cercarono di dare risposta aprendo la libreria Calusca, che da subito si propose come, per usare una categoria a cui ho fatto riferimento prima, come struttura di servizio del movimento. Questo voleva dire una cosa molto precisa nella dinamica politica del tempo, cioè qualcosa che non fosse di proprietà né politica né intellettuale di un gruppo politico tra i vari che si contendevano la supremazia sulla scena politica, perché, come ho accennato anche quando ci siamo beccati l'altro giorno, dovete ricordare che Milano era la città della politica allora come ancora oggi, e quindi la competizione sulla scena politica era molto molto forte, molto drastica e anche molto violenta, perché i rapporti non sempre erano di fraternità all'interno del movimento. Si erano già ossificati dei gruppi di potere, innanzitutto all'interno della statale di Milano, che per un breve periodo, in quella che è ancora Cesarano aveva definito la primavera degli studenti, aveva svolto una funzione di collegamento tra i vari pezzi della città che desideravano di incontrarsi, ma poi era stata presa in mano dal movimento studentesco della statale e lì se la pensavi diversamente ti faceva capire velocemente che non era il tuo posto. E prima invece desiderava costituire un polo che fosse attraversato dalle varie anime del movimento e che soprattutto desse voce e possibilità di esprimersi a tutto quello che neanche riusciva ad arrivare al livello della pubblicazione. E quindi non soltanto la libreria come struttura di distribuzione dei materiali editoriali di movimento o comunque interessante, ma come struttura di produzione di questi materiali, e con una grossa disponibilità e attenzione alle realtà più minute di base, anche più demunite dal punto di vista delle conoscenze tecniche e delle possibilità pratiche di realizzare qualche cosa. Dovete tenere presente che allora era per molti versi più difficile di oggi. Oggi è più facile anche da casa propria mettere fuori qualche cosa che poi possa incontrare degli interessi. Ai tempi i costi di produzione erano più alti di oggi, andare in tipografia, stampare in offset costava e questa cosa era in genere fuori della portata dei gruppi di base, altrimenti c'era il ciclostile, però voleva dire stare in una dimensione che facilmente restava ristretta, oppure c'erano sistemi anch'essi deboli. Ecco, una delle capacità del tempo fu quella di usare tutti questi strumenti, questi mezzi, queste tecniche, anche le più povere, per produrre e far circolare materiali. Conoscete sicuramente l'esperienza del maggio francese, dell'Atelier Populaire, i bellissimi manifesti prodotti al tempo. Ecco, in Italia non c'è mai stata un'esperienza concentrata come quella, ma sono state molte le esperienze più diffuse, più orizzontali di produzione e di innovazione tecnico, culturale e grafica. Ecco, quest'ultimo elemento è importante perché quelli sono anche gli anni in cui, sulla sollecitazione prima dell'editoria underground e quindi su questo nuovo uso dell'immagine e questa scomposizione delle rigidità di impostazione della pagina prima, ma poi a partire da una valorizzazione che per certi versi può sembrare anche ingenua delle capacità di ciascuno, anche di chi non era del settore, di esprimersi con un segno, con un disegno, con una foto trovata chissà dove, scattata, insomma, l'orizzontalità era un tratto forte perché si sentiva e si condivideva una urgenza, una pressione di chi fino a quel momento era stato senza voce, di chi era stato selezionato prima nella scuola e poi nell'età adulta e aveva come unico modo di accesso alla cultura il consumo culturale di quanto era proposto dall'industria culturale secondo ben precise scale gerarchiche. Ecco, questa esigenza di incontrare i soggetti, farli interagire, dare modo a percorsi di ricerca e di autoricerca, perché quelli sono gli anni in cui probabilmente la società italiana arriva a conoscersi come Non sarà poi più successivamente. Oggi sostanzialmente non si sa un cazzo di niente, di quello che avviene davvero nella società. Allora, invece, per una serie di necessità, innanzitutto la necessità della lotta, perché per lottare, per organizzarsi, per avanzare istanze si parte dalla realtà e si ricercano nella realtà gli spiragli, quindi quella capacità ad esempio di rileggere il ciclo produttivo, l'organizzazione tecnica del lavoro di fabbrica per capovolgerla come possibilità di lotta. È forse l'esempio più noto, ma questa modalità poi si riproduce, si espande e comunica con tanti altri pezzi e segmenti della società. E quindi, primo, innanzitutto a partire dalla sua estrema, primo e i compagni che con lui collaborano, dalla sua estrema curiosità, dal suo desiderio di essere presente alla storia come militante, ma fuori degli schemi che avevano segnato la sua prima esperienza. Sapete che primo si forma all'interno del Partito Comunista, da cui uscirà nel 63. Ecco, in quegli anni in cui passa dalla Federazione Giovanile Comunista al Partito Comunista, ha modo di sperimentare sulla sua pelle tutte le rigidità, tutti i vincoli, tutte le limitazioni che derivano da un'organizzazione politica verticistica, da una determinata formalizzazione dei rapporti tra organizzazione e movimento, eccetera, che sono propri di quella tradizione, anche se va precisato che per estrema complessità della vicenda politica proletaria in Italia passeranno ancora degli anni prima che la chiusura sia totale. Allora ancora, e soprattutto in una città come Milano, il partito e le istanze centrali non riescono a controllare, e questo era stato anche in precedenza. Ad esempio, a Milano, parlando di editorie, ancora dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, pur avendo il partito un grosso peso e una grossa capacità di direzione su quella che allora potevamo definire l'intellettualità di sinistra, però non riesce a esercitare un'egemonia completa. Per cui, ad esempio, a Milano ci sono case editrici come Minuzzi o l'Istituto Editoriale Italiano, che nei pieni anni dello stalinismo riescono a far uscire testi assolutamente fuori linea. C'era poi tutto il gruppo di quella che poi sarà chiamata la scuola milanese di filosofia, tutto il gruppo dei fenomenologi, Banfi, Paci, lo stesso Giulio Preti. Ecco, il Saggiatore, tra l'altro, proprio quando nascerà, sarà un po' una stanza di compensazione di queste istanze. Per cui, se andate a vedere il comitato scientifico di collane importanti come La Cultura del Saggiatore, vedete che ci sono tanti nomi assolutamente non allineati. Ecco, questa impossibilità pratica di tenere tutto sotto controllo continua anche negli anni successivi, in una dialettica molto, molto sottile tra la classe e i suoi organi ufficiali, che ad esempio Danilo Montaldi, secondo me, riesce a descrivere molto bene nel suo saggio sulla politica comunista in Italia. Queste cose, primo, le conosce molto bene, innanzitutto per esserne stato parte, avere rotto e avere però mantenuto una serie di rapporti, anche, se volete, un'impostazione un po' gramsciana, e cioè attenta alla possibilità che istanze di riflessione, delle novità, si producano, ma poi possano espandersi, contaminare altri giri, intersecarsi con altre esperienze. Primo ha condiviso sempre posizioni molto radicali, ma diversamente da altri compagni di questi giri più radicali, ha sempre avuto questa idea che le cose si sarebbero svolte su tempi lunghi, quello che veniva prodotto da un gruppo piccolo si sarebbe poi magari riuscito a, a generalizzare, a comunque assegnare. Ecco, questa è in questo senso un po' un'idea gramsciano, non che, che prima fosse gramsciano in termini teorici, però, però aveva questa, forse era la cosa che aveva conservato dalla sua esperienza nel PC. Tante altre cose invece non le voleva proprio conservare, e al contrario aveva sempre fatto sì che sostanzialmente i proletari potessero esprimersi e agire direttamente, e quindi la sua attività che lui definiva come quella di un libraio di movimento, in realtà era molto di più, era una internità ai percorsi e soprattutto una capacità di favorire la possibilità che questi percorsi arrivassero a delle realizzazioni. Per questo quindi il discorso sulle strutture di servizio, la libreria è una di queste. Poi a partire dalla metà degli anni 70, innanzitutto dal grosso incontro alla Palazzina Liberty, che ai tempi non era quello schifo che è adesso, ma era la sede del collettivo La Comune di Dario Fo, dove si svolgevano gli incontri più significativi. Ecco, ci fu un grosso incontro dell'editoria alternativa e di movimento nel dicembre 74. Da questo incontro, tra le altre cose, nacque l'idea di formare un consorzio tra una decina di librerie vicine al movimento nel milanese, per realizzare termini di rapporti di forza migliori con i distributori, sostanzialmente per ottenere una scontistica più elevata, mettendo insieme gli ordini. Ecco, questa è l'idea iniziale della Punti Rossi, che però velocemente cambia, fino a che la Punti Rossi si propone di essere la struttura di distribuzione dei materiali di movimento a livello nazionale. Ci riesce in una maniera che ha un po' del mirabolante, perché i soldi non c'erano. Come ho detto anche ad alcuni di voi, dovete immaginare un'Italia molto, ma molto più povera di quella che è oggi. Ecco, potete immaginare l'Italia tra qualche anno. Ecco, così sarà altrettanto povera di com'era allora. E in questa povertà, ma in questa forza dei rapporti di movimento, si riuscivano a fare tante cose a partire dalla condivisione. E quindi l'esperienza della Punti Rossi, che fu la prima esperienza effettivamente funzionante a livello nazionale di distribuzione editoriale, perché dovete considerare che anche le grosse distribuzioni di fatto non riuscivano a far arrivare i materiali editoriali lungo tutto lo stivale, soprattutto non riuscivano a far risalire le cose del sud al nord. Ecco, a partire da una rete di piccole librerie, centri di documentazione, gruppi di compagni che era nell'ordine del centinaio, e sfruttando proprio il movimento fisico dei compagni e dei giovani su e giù per la penisola, soprattutto con l'esplosione della produzione di parola che accompagna il 77, riesce a far sì che il foglio, il buco di Putignano arrivi a Milano, a Putignano arrivi quella che allora era la rivista più diffusa del movimento, tra tutte quelle prodotte all'interno del movimento, cioè Controinformazione. e così via, in un andirivieni di materiali spesso privi di qualsiasi valore commerciale, perché erano fogli di poca consistenza, ma pieni di idee, sì, ma dal punto di vista commerciale non valevano praticamente niente. E quindi questo già solo era un motivo per cui non avrebbero dovuto circolare. Invece all'interno stesso della contabilità non si faceva il calcolo del valore, si faceva piuttosto un calcolo di fisicità, ma neanche, era un prendere e dare sulla base di necessità di comunicazione. Questo era e questa è una cosa che è riuscita a durare fino ai primi anni Ottanta, quando poi la repressione ha scompaginato un po' tutto, ed è successivamente stata ripresa quando si sono riaccese delle culture underground di base, cioè nella stagione punk. Allora si ripropose la stessa necessità e fu realizzata una struttura che per molti versi ricordava la Punti Rossi, come era la Lega dei Furiosi, no? Che avrà una vita più breve, ma che rispondeva alle stesse necessità. In quella stessa propensione nacquero dei punti di distribuzione di fanzine, di dischi, di cassette, perché allora si usavano molto anche le cassette. Ecco, questo è molto molto in breve il contorno generale di queste due attività della Caluso, cioè distribuzione e punto di coagulo di intelligenze e di percorsi critici. C'è poi un terzo elemento a cui ho accennato prima, e cioè quello della produzione diretta. Il collettivo editoriale Calusca produce direttamente una serie di testi e di riviste molto importanti del tempo. Beh, una di sicuro la conoscete, anche perché se ne è parlato pure in quell'incontro, è la rivista Primo Maggio, che era prodotta dal collettivo editoriale Calusca. C'era poi la necessità di rispondere alle esigenze derivanti dall'esperienza delle 150 ore, e cioè dei corsi per il conseguimento dell'obbligo scolastico elementari o medie per tutti quegli adulti lavoratori che non avevano potuto fare un percorso di studi regolari, che in misura di 150 ore di permesso retribuito si svolgevano in diverse scuole di Milano a livello nazionale, sulla base di quanto ottenuto prima nel contratto dei chimici e poi esteso a livello nazionale per le altre categorie nel 74. Ecco, chiaramente trattandosi di corsi scolastici per adulti, e per adulti che in genere avevano un'esperienza di lavoro di fabbriche, quindi di lotte, di organizzazione, eccetera, servivano materiali didattici assolutamente diversi da quelli tradizionali, e quindi fu realizzata questa serie di dispense 150 ore, che era promossa ed editata dal collettivo editoriale Calusca insieme alla Celuc Libri, che è la cooperativa editoriale dell'Università Cattolica, che esiste ancora adesso. Adesso, da anni c'è in corso un contenzioso con Comunione e Liberazione, che ha cercato di sfrattarli, di bloccare il magazzino, eccetera, che allora era un polo di produzione editoriale vicino al movimento molto, molto grosso, perché oltre alla casa editrice La Salamandra, che di fatto era un secondo nome della CIU, avrebbe prodotto una rivista importante come I Quaderni del Territorio, quindi tutto il giro di Magnaghe e degli altri studiosi del territorio che facevano capo al Politecnico. Poi il Centro di Documentazione Scuola di Roma e il Centro Ricerche sui Modi di Produzione, che era una struttura di ricerca sostanzialmente sulla questione rapporti tra metropoli e terzo mondo, animato da Sergio Spazzali insieme ad altri. Ecco, questa serie di dispense che abbiamo in archivio, quando l'ho fatta vedere ad alcuni di voi, ha colpito molto, perché i temi sono quelli che potrebbero stare su una rivista militante o ultra militante, ma in dispense che erano usate all'interno delle scuole, e quindi già questo dà il segno di quel passaggio dall'underground all'overground di cui si parlava proprio oggi con Giancarlo. E grossa attenzione inoltre non solo per la formazione scolastica degli adulti nell'esperienza delle 150 ore, ma in generale per la questione scolastica e dell'infanzia, per cui c'è ad esempio quest'altra serie che aveva un nome, che era tutto un programma, Rompere le righe, che era realizzata dal Centro di Documentazione Scuola, dalla Calusca, e dal Centro di Documentazione di Pistoia, che era uno dei poli del circuito di distribuzione della Punti Rossi di cui vi ho fatto cenno prima, e che ancora oggi è forse la migliore raccolta di editoria di movimento in Italia, perché appunto ricevendo tutti i materiali della rete della Punti Rossi ha una emeroteca veramente fenomenale, praticamente tutte le testate prodotte dal movimento in Italia lì ci sono. Un'altra esperienza molto, molto significativa è del tempo, è questo libro, La mano schiaffona, una storia per immagini e testo realizzata da Giancarlo Bonfino, grande grafico, tra l'altro il grafico tra l'altro di Primo Maggio, che insieme a Gio Tavaglione forse è stata la figura più importante della grafica di movimento. Ecco. Adesso ecco, io ho accennato alle cose più direttamente legate alla Calusca, nella temporalità della Calusca, però per parlare delle esperienze di editoria alternativa, di base, underground, bisogna fare qualche passo indietro e quindi di questo parlerà Giancarlo, perché appunto addirittura prima del 68 nasce una produzione editoriale underground in Italia sulla base delle esperienze del tempo. Avete sicuramente sentito parlare dei capelloni e dei fogli che producevano. Milano e Roma erano forse le due città più importanti in questo movimento, che ancora una volta era un movimento fisico oltre che mentale e spirituale. Erano centinaia e centinaia di giovani che si spostavano molto spesso dalla provincia per rompere con i quadri della vita tradizionale in cui erano stati costretti e cercavano innanzitutto una possibilità di incontro, possibilità che non passava inosservata, perché appunto non erano quattro gatti, quando si mettevano insieme erano un certo numero, ma soprattutto destavano un'estrema preoccupazione nel perbenismo, nel conservatorismo che permeava un po' tutta la società italiana. Ecco, un'altra cosa, oltre a quanto era povera la società italiana, dovete pensare quanto fosse di destra, conservatrice, bigotta, limitata e stupida, per cui bastava affrontare temi della vita, come i rapporti tra le generazioni, i rapporti tra i sessi, l'espressione della ricerca di una identità, che si finiva facilmente nell'occhio del questurino, e tra l'altro proprio a Milano, in occasione dell'esperienza di quella che sarà definita Barbonia City, il campeggio dei cappelloni, si avrà un impiego massiccio dei fogli di via. Se ne parlava con compagni giovani, riflettendo sul fatto che quello che è tornato in uso come uno dei principali strumenti per mandare via i compagni dalle situazioni in cui lottano, allora fu sperimentato, ripescandolo da una legislazione di 30 anni prima, per mandare via i cappelloni di Milano. E quindi lo sgombero di Barbonia City, l'inverecondo bivacco, con 79 arresti e 200 fogli di via. Ecco, di questo complesso di esperienze controculturali, che aveva anch'esso i suoi strumenti, le sue strutture per manifestarsi, parlerà Giancarlo. Io ringrazio Roberto per quello che ha detto e anche per gli spunti che mi dà con le sue ricostruzioni estremamente precise e importanti, anche per il discorso che tenterò di fare io. Io direi innanzitutto che si tratta di esperienze molteplici che sono nate in Italia e non solo in Italia a partire dagli anni 60, da metà degli anni 60 per essere precisi, ma di esperienze diversamente radicali. L'elemento che probabilmente accomuna i materiali prodotti in ambito beat, perché è così che si definivano i capelloni italiani, perché c'era un rimando e un richiamo molto forte con l'America della Beat Generation, anche se in Italia fu vissuta diversamente quella stagione, ovviamente, però l'archetipo, il riferimento ideale era e rimaneva quello, il beat che mette tutto in gioco, il beat che si trova a ridisegnare se stesso, la propria vita, il proprio futuro a partire dalla strada. La strada diventa la metafora della ricerca, nonché la metafora di una visione, di una nuova visione esistenziale, frutto, se vogliamo, di un travaglio dovuto un po' al fallimento dei modelli precedenti, perché la Beat Generation, se noi guardiamo bene, e lo abbiamo detto in questi giorni con Roberto quando abbiamo tentato di ricostruire, seppur sommariamente, la storia dell'underground nostrano, anche di altri paesi come gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Germania, nasce proprio da un rifiuto, nasce dalla impossibilità di sentirsi e di essere compatibili con, in America si diceva, l'American Way of Life, Kerouac, perché io lo chiamo così come dovrebbe essere chiamato, perché lui era francofono, era del Quebec francese, non era Kerouac. Gli americani storpiano tutto. Dicevo recentemente, il virus diventa virus, e per noi che siamo anche appassionati di rock, e del vecchio rock classico degli anni 70, gruppi come i Colosseum diventano Colosseum, perché anche il latino deve essere inglesizzato, no? E allora praticamente Kerouac che cosa fa? Mette in discussione tutto. Lui che era stato marine della guerra di Corea, quindi era ferocemente animato da spirito nazionalista anticomunista, nonché era persona integrata, perché era un cronista sportivo, no? Praticamente nel suo libro, praticamente Big Sur, lui parla e descrive questo suo trascorso, questo suo passato, perché temporalmente è il libro che viene prima di Sulla strada, nella ricostruzione. Sulla strada viene, sì, concepito nel 47, ma scritto nel 57, 10 anni dopo. In realtà il libro che lo precede è il libro della parte introduttiva della vita pubblica e lavorativa di Kerouac. Descrive i suoi legami familiari, la sua formazione cattolica, la ricerca di una spiritualità. La strada, allora, noi dobbiamo dire, diventa il luogo dove questa ricerca si forma, si fonda, si affronta. E non senza difficoltà ciò avviene, perché era una messa in discussione, ecco perché io dicevo diversamente radicale, perché si mette in discussione radicalmente se stessi, tutto ciò che si è fatto, tutto ciò che si è vissuto, tutto ciò che si è acquisito. Ci si spoglia di tutto, si diventa assolutamente poveri, nel senso pieno del termine, perché si svuota anche lo spirito che era stato acquisito fino a quel momento per lasciare il posto a una nuova prefigurazione di vita, a una nuova possibilità di affrontare la quotidianità. I Beat erano mossi sicuramente da questa grande ricerca, almeno lo era sicuramente Kerouac, che non amava molto i movimenti. Parlava più della ricerca esistenziale, probabilmente anche religiosa, aggiungo io, perché se poi dovessimo esaminare Dean Moriarty, il rimando di Dean Moriarty, no? Praticamente a che cosa fa riferimento, noi sicuramente dovremmo parlare anche di Dio, no? Ma lasciamo questo tema perché sarebbe troppo distante da quello che stiamo per dire stasera. E fermiamoci invece a parlare di questo tentativo di trovare all'interno di una nuova comunità che sarebbe nata dai nuovi incontri che sarebbero stati fatti, da quello che in Italia Roberto ha ricordato come una delle esperienze iniziali del movimento Beat, no? In Inghilterra più underground, come pure negli Stati Uniti d'America, in Italia più alternativo, cioè erano questi i termini, perché a me piace anche ricostruire la storia così come la storia si è formata in quegli anni. Io non voglio dire cosa si pensa adesso di questa storia. Cioè io non ci sto a un processo di revisionismo anche fatto di terminologie nuove. E lo dicevo agli amici l'altra volta, io, noi appassionati di musica rock, leggendo le riviste specializzate di oggi, rimaniamo veramente perplessi quando leggiamo che gli Who erano proto-punk. Quando leggiamo che gli MC5 di John Sinclair, non so quanti di voi hanno ascoltato mai quei dischi straordinari prodotti almeno nella prima fase da John Sinclair delle Pantere Bianche, fossero gli anticipatori del garage punk. Tutte terminologie astruse, astratte, assolutamente distinte e distanti da quanto si diceva in quegli anni. Io non voglio fare questo, vorrei cercare di riportare il contesto, per quanto è possibile, per come è possibile, quindi in maniera frammentata e parziale, di quegli anni. E dicendo questo, io dico che la strada ha riguardato anche i Beat italiani, che si formano, secondo quello che diceva sempre Melchiorre Gerbino, no? Si formano prima dei Provò olandesi. Prima. Quindi è quel movimento che addirittura anticipa i fermenti che da lì a poco ci sarebbero stati in Olanda. Secondo Melchiorre Gerbino, un anno dopo sarebbe stato l'inizio di quei movimenti in Olanda rispetto a quello che era stato fatto in Italia da Mondo Beat. Mondo Beat non aveva mezzi. Fa bene Roberto a ricordare questo. La creatività era la forza. Era la ricchezza, era il patrimonio, era ciò che si poteva spendere, era ciò che si poteva dare a quel movimento e a se stessi. E questa creatività ovviamente consentiva di trovare un posto umile, un garage oppure un piano interrato, comunque certamente non un locale perfettamente idoneo per fare incontri, riunioni, perché tutto era nato dall'underground, tutto era nato dai sotterranei della storia, citando sempre Kerouac, anche se in quel libro lui parla più dell'esperienza della guerra in Corea che di altro, no? Però io dico, quel titolo in qualche modo raffigura e racchiude questo contesto nel quale tutto è nato, nel quale tutto è sorto. E Roberto ricordava underground, diranno dopo qualche tempo i Weathermen underground, nel doppio senso di sotterraneo, come stiamo dicendo adesso, ma anche di illegale. Perché poi quello che era nato nell'underground era destinato in qualche modo o a essere messo fuori legge o a mettersi fuori dalla legge. Non so se mi spiego. Perché era destinato a essere messo fuori dalla legge, dalle leggi? Perché Roberto lo ha ricordato molto bene adesso. Cioè, in quegli anni la realtà era questa. Io venni a Milano, la tendopoli di via Ripamonte, l'orrenda Barbonia City. Il Corriere scriveva queste cose, che era il giornale più illuminato della borghesia milanese. Immaginate voi gli altri giornali cosa potessero scrivere. E praticamente erano tutti i frequentatori di quel posto additati al pubblico ludibrio, al pubblico disprezzo, ed erano persone che in qualche modo dovevano essere esclusi dalla società, dovevano essere quindi messi fuori al bando, banditi, i fogli di via, sia perché erano minorenni, sia perché con i loro comportamenti oltraggiavano il comune senso del pudore, perché osavano lavarsi con un po' di acqua che veniva estratta da una fontanella con una pompa, diciamo, in costume. Udite, udite, quale scandalo per la società che transitava dalle parti di via Ripamonti, no? E tutti davano addosso a costoro, perché erano scappati di casa, perché erano rincorsi dalle madri, perché erano fuori dalla società, perché non lavoravano, perché avevano comportamenti che erano incompatibili con il vivere civile. Io ricordo a Roma, in quegli anni, scalinata di Trinità dei Monti, foglio di via obbligatorio dato con le motivazioni che Tizio Caio si trovava alle ore X alla scalinata di Trinità dei Monti perché era seduto per terra su dei gradini e addentava un panino. Cioè era un comportamento incompatibile con quello del vivere civile. Era un comportamento assolutamente, diciamo, da stigmatizzare, che non poteva coesistere con quella società. Così come le tematiche che riguardavano la sessualità. Non se ne poteva parlare, ma attenzione, siamo in buona compagnia. Ricordiamoci che nell'Inghilterra dei fine anni 60, inizi anni 70, una rivista, Oz, fondata da Richard Neville, un australiano che arrivò a Londra negli anni 60 e che fu l'autore di un libro storico. Se c'è qualcuno che vuole documentarsi su questo periodo, cito allora il nome di questo libro, Play Power, pubblicato da Milano Libri Editore. Libro storico sull'underground inglese, no? Che è uno spaccato della realtà di quegli anni, che aveva un'omonima rivista che si chiamava Oz, no? Sempre di Neville, lo stesso autore, che praticamente fu portata a processo nel numero che riferiva dell'inchiesta sulla sessualità dei giovani inglesi nelle scuole medie e superiori che era stata condotta dai redattori della rivista. Allora, il fatto di aver condotto un'inchiesta e di aver avuto una risposta dagli allievi e dagli studenti delle scuole medie e superiori dava adito a uno scandalo e addirittura configurava ipotesi di reato. Ricordo al proposito, anche per gli appassionati di musica, che esiste un disco intitolato Welcome to the Canteen dei Traffic, gruppo storico della scena inglese di quegli anni, con uno straordinario Stevie Winwood che veniva da Spencer Davis Group, dico per gli amanti, e che poi finì nei Blind Faith, il supergruppo Ginger Baker, Rick Gretsch, Jack Bruce, ad Hyde Park, in un concerto memorabile che oggi si trova pure su internet, per cui chi volesse può documentarsi. E praticamente questo disco, pubblicato da una grossa casa editrice, casa discografica, voglio dire, finanziava le spese legali che la rivista Oz avrebbe dovuto sostenere per il processo al quale era andata incontro. Per dire, anche in Inghilterra lo scandalo era presente come in tutti gli altri paesi, come per esempio negli Stati Uniti d'America. Non è che possiamo pensare che lo scandalo fosse visto, ravvisato, utilizzato e strumentalizzato solo in Italia. Non è assolutamente così. L'Italia era ancora forse più provinciale, ancora più refrattaria, ancora più chiusa. Allora si servì di questi fogli di via. Ma io vi assicuro che in quegli anni, le prime volte che io andavo in Inghilterra, minorenne, perché allora ai tempi miei si era maggiorenni a 21 anni, per cui bisognava chiedere al padre che esercitava la patria potestà. Non esisteva la potestà genitoriale, la madre neanche era considerata. Infatti nel libretto di giustificazione scolastica c'era scritto firma del padre o di chi ne fa le veci, quindi tutore o curatore, mai madre. La donna non era neanche menzionata, doveva seguire il marito, secondo la legge precedente a quella di riforma del 77 del codice civile, che modificava anche l'istituto familiare. E allora i Beat praticamente cercano di trovare dei luoghi, delle strutture, cercano di darsi una voce. E allora comincia la produzione, ma la produzione è molto povera, è molto circoscritta, è molto underground e ciclostilata. Infatti, se voi vedete le riviste Urlo e Mondo Beat, le prime riviste dell'underground, no? Ho visto che Filopat nell'agenzia X ha fatto l'edicola che non c'è, e con mio grande piacere ho rivisto che loro hanno fatto le foto delle riviste originali, però hanno fatto soltanto per tenerle in edicola, visibili, a disposizione di tutti, perché non è facile, perché poi il mercato ha fatto lievitare enormemente i prezzi. Pensiamo per esempio Pianeta Fresco, che era un'eccezione in quel panorama, no? Perché la stragrande maggioranza delle riviste che distribuiva, e lo dobbiamo dire, Ignazio Maria Gallino, no? In via Anfiteatro 9 a Milano, International Alternative Press, IAP, erano ciclostilate, erano fatte con materiale poverissimi, no? E quindi praticamente non avevano una grande tiratura, una grande distribuzione. Pianeta Fresco invece c'era già Fernanda Pivano, Ettore Sozzas, bravissimi grafici, avevano più mezzi e hanno potuto fare dei numeri che sono arrivati a quotazioni stratosferiche, vi dico, no? Prima dell'avvento dell'euro si parlava di qualche milione di lire per ciascun numero, vi dico, prima dell'avvento dell'euro. Immaginatevi adesso con l'avvento dell'euro e col passare del tempo e degli anni. Quindi c'erano le riviste praticamente del beat, c'erano le riviste che avevano un carattere, come dire, mistico, come Ommo, mi ricordo, piccolo ciclo stilato, che è distribuito sempre da Ignazio. C'erano quelle riviste che erano esclusivamente legate a, come dire, a dei temi specifici, come Fuoco, di cui parlavamo oggi, di Casale Monferrato, l'obiezione di coscienza, eccetera, eccetera. C'erano riviste che invece abbracciavano più un ambito musicale, tipo Get Ready, anche quella arrivata a quotazioni stratosferiche. La rivista a forma di joint, no? Quella penso che sia un pezzo pregiato per i collezionisti, no? E poi c'erano praticamente quelle riviste che cercavano di fare una mappatura del territorio, ma del territorio alternativo. Roma ai, Roma sotto. E nella scena romana c'era due figure, eminentemente, Angelo Quattrocchi, che purtroppo da anni non è più tra noi, che poi ha fatto la casa editrice Fallo, da Do It di Jerry Rubin, il mutuato il nome, con varie pubblicazioni, Timothy Leary, le riviste di Melville, di un altro dei fondatori di Oz, insieme a Richard Neville, e praticamente altri testi, e poi faceva un'omonima rivista che si chiamava Fallo, che aveva dato anche vita a Controcampo, un'altra rivista romana, usciti solo due numeri, una buona veste grafica, però non è durata molto, no? Segno che l'underground faceva fatica a trovare i mezzi di volta in volta per poter mantenere un certo livello, ed erano praticamente tanti fogli che circolavano in poche decine o centinaia di copie. Per cui concentrare il lavoro in una struttura come è stata l'International Alternative Press di Ignazio Gallino a Milano è stata un'impresa titanica, direi, veramente straordinaria, perché non c'erano mezzi, era difficilissimo reperirli. Io ho cominciato, sono stato, catarro. Un po' di pazienza. Il catarro di stagione. Grazie, Robè. Grazie, grazie. Grazie. Scusate, ma mi sono dovuto fermare. Ma voglio dire, è tutta questa esperienza, no, che è riuscito a coagulare intorno a quel punto. Era un'esperienza unica, straordinaria, perché allora siamo nella fase proprio dell'inizio embrionale della circolazione della stampa. Prima uno come faceva a reperire questi materiali? Col passaparola, perché l'amico aveva saputo di una rivista che usciva a Piazza Armerina, provincia di Enna, aveva fornito l'indirizzo a un altro amico, questo a un altro. Allora circolavano le prime copie in quel giro ristretto di amici. Successivamente capitò la stessa cosa con altri fogli analoghi, però quando praticamente cominciò il movimento ad avere più forza, c'era un bollettino che arrivava a tutti gli indirizzi di coloro che lo richiedevano o di coloro che potevano essere interessati a ricevere questi materiali. Ed era un bollettino ciclostilato che Ignazio spediva. Io ho conosciuto indirettamente Ignazio in quegli anni, perché io richiedevo queste riviste e lui me le mandava. Mettevamo i francobolli noi dentro. Cioè, così lui lo utilizzava poi per la corrispondenza. Neanche denaro, solo se c'erano quantitativi un po' ingenti, diciamo, si faceva un vaglia postale. Se erano poche copie, erano in francobolli che si dava il proprio contributo. Il tempo è perché devo fare i conti anche con il tempo, conosce però fasi diverse, cioè nella distribuzione dei materiali di movimento, perché il movimento cambia, si evolve, cambiano pure i mezzi tecnici, cambia la portata. Quando nasce per esempio Stampa Alternativa, che è un'altra delle grandi distribuzioni con la quale io ho collaborato per anni, diciamo, fino a quasi tutti gli anni 70, nel primo periodo, nasce da una piccola sede che si trovava dalle parti di via Prato Falcone in Roma, mi ricordo sempre, che poi sarà ingrandita da una seconda sede, c'era Marcello Baraghini e Guido Blumir. Blumir era un sociologo che era molto interessato al problema della droga, eroina, il famoso libro uscito per Feltrinelli, ed era anche colui che aveva fondato insieme ad Ignazio il SIMA, Pensieri di Droga. Se voi prendete i vecchi numeri di Renaud, se vi capiterà, c'era questa pubblicità, SIMA, Pensieri di Droga, rivolgiti al SIMA. Era un'associazione che un po' può essere paragonata a quello che avevano fatto in Inghilterra con Release, per esempio, no? L'organizzazione per il rilascio. C'era un'organizzazione che si chiamava Release in Inghilterra, dove io negli anni 60 conobbi, non so quanti di voi conoscono, Psychic Television, quel gruppo inglese, no? Che faceva musica industriale, diciamo. In realtà loro erano hippie prima di essere musicisti industriali, e lei, Cose i fanni tutti, no? Era una di Release. Quando io poi vedo le sue performance, no? Completamente radicale, sesso, eccetera, voi trovate nella sua biografia queste cose. Lei comincia, però, di questo si parla poco, in questa organizzazione per il rilascio. C'era un arresto perché l'immigrazione clandestina, oppure il problema dell'aborto, no? Perché si favoriva l'aborto, no? Perché, per esempio, molte compagne, ragazze, amiche, donne, venivano in Inghilterra. Io dico venivano perché per un periodo abitate in Inghilterra, dall'Italia, per abortire. E questa organizzazione forniva il soccorso legale. In un certo qual senso, quello che è stato fatto anche in Italia aveva questo riferimento, perché c'era questa sorta di internazionale delle informazioni alternative che agiva e agitava un po' tutti. E allora praticamente anche in Italia queste esperienze cominciarono ad avere peso. Stampa alternativa però, perché devo un po' saltare, se no diventa impossibile proseguire il discorso e concluderlo, era praticamente arrivata all'inizio degli anni 70, era già una fase diversa. Cioè, così come pure poi vedremo i Punti Rossi, l'altra grandissima esperienza di cui ha accennato Roberto, no? Peccato che non ci sia Renato, che è anche l'editore Colibrì, che praticamente è lui che l'ha portata avanti per tantissimi anni, almeno a Milano. E voglio dire, Stampa Alternativa arriva in una fase successiva, in cui il movimento ha altri mezzi, altra forza, altra consistenza, altre possibilità rispetto all'underground italiano, che non aveva un'organizzazione sostanzialmente, erano gruppi spontanei. Voi capite, la redazione di un giornale non faceva riferimento a un gruppo politico, non aveva i mezzi che aveva un gruppo politico, non aveva neanche la forza, no, di sedimentazione, di penetrazione nel sociale che aveva un gruppo politico. Una rivista beat era fatta per i beat, per gli aspiranti beat, per coloro che praticamente non ne potevano più di vivere nella famiglia e di essere costretti a assumere un ruolo preciso in quella società, o essere destinati al militare, poi al lavoro in ufficio e poi alla morte. Questo era il discorso, per semplificazione estrema. Col movimento nascono invece strutture più organizzate, Stampa Alternativa comincia a fare un lavoro non solo di casa editrice, ma proprio anche di servizio del movimento. Ha un bollettino, manda il bollettino a tutti gli abbonati. Premetto che Baraghini era uno del partito, è uno del Partito Radicale, molto amico di Marco Pannella, viene da quell'esperienza. Lui aveva militato solo per un periodo molto breve nel movimento studentesco, molto breve. Poi era uscito ed era tornato in quell'area radicale. Infatti tutti i suoi amici avevano quelle frequentazioni, avevano quella formazione culturale. Io mi ricordo quando mi presentò uno dei primi quattro deputati radicali che si è detto nel Parlamento, l'avvocato Mellini, che è stato un bravissimo avvocato, anche un bravo compagno, che ha difeso tanti compagni del movimento anche negli anni 70, lui mi parlava di questa esperienza, era assolutamente anticlericale, faceva i processi contro la Sacra Rota, cioè prendo punti d'onore, come dire, no? Quella era la formazione, però avevano un'organizzazione che era molto efficiente, efficace nella diffusione dei materiali, i distributori locali, già si era articolata quella rete, mentre Ignazio mandava tutti i materiali direttamente al destinatario, loro, come stampa alternativa intendo, agivano attraverso intermediazioni. Come Roberto ha ricordato, il centro di documentazione di Pistoia di Enza Siccardi, che io rincontrai 30 anni dopo a Roma, e loro hanno fatto un lavoro straordinario, però allora c'era la possibilità di essere mediatori, cioè trovare la possibilità di avere dalla fonte, ecco in che senso intendo la mediazione, perché mentre praticamente il rapporto che c'era tra l'IAP e i destinatari delle pubblicazioni era un rapporto diretto, non c'era alcuna intermediazione, cioè non c'era qualcun altro che facilitava la diffusione di quei materiali, in quel caso lì hanno incominciato le facilitazioni e si è incrementata pure le pubblicazioni, si sono incrementate le pubblicazioni. Anche il livello di stampa era migliorato. Noi ci accorgiamo che dei primi opuscoli di stampa alternativa, no? Perché ha fatto tante cose stampa alternativa, ha cominciato con gli opuscoli a 300 lire, poi ha avuto il boom in Contro la famiglia. Contro la famiglia è stato un po' un boom, costava 500 lire. No, io lavorai alla parte legale, perché già allora mi occupavo di questi argomenti qui, no? E praticamente poi tanti altri libri che ebbero successo. Mi ricordo uno che avevamo fatto con un amico, Dylan S.P.A., no, contro, diciamo, il Dylan che aveva assunto il denaro come valore assoluto del suo muoversi come musicista, no? Dopo aver lasciato il movimento contro la guerra del Vietnam, eccetera, eccetera, approdato purtroppo al più becero dei trasformismi possibili, no? E giocava anche lui a fare il divo, diciamo, e noi avevamo stigmatizzato, pur essendo stati grandi appassionati del Dylan primo periodo. E poi c'erano, mi ricordo, tutti gli opuscoli contro la repressione. Mi ricordo nel 75 entrò in vigore la famigerata legge reale, che inizia la legislazione dell'emergenza, secondo me quello l'inizio storico della legislazione dell'emergenza, che poi sarà codificata a partire dagli anni Ottanta, ma che in realtà aveva avuto delle anticipazioni chiare e nette, cioè che praticamente riduceva, se non azzerava, i diritti della difesa, il diritto alla difesa, cioè sia per imputati che per avvocati, istituiva il fermo di polizia, non dava la possibilità di interrogare l'indiziato senza la presenza di un avvocato. E noi abbiamo lavorato tantissimo a questo, sia gli opuscoletti contro la legge reale, io ricordo un opuscolo di stampa alternativa in quel periodo, metà anni 70, sia il libro di Viola, un compagno siciliano, tutti i morti della legge reale, che erano cifre da capogiro, no? Quanti morti aveva fatto la legge reale, i posti di blocco, i controlli di polizia, tutte le volte che venivano chiesti documenti, e il poliziotto sparava, no? A colui che avrebbe dovuto dare i documenti, perché dice stava per introdurre una mano nel cruscotto e noi abbiamo visto un oggetto metallico luccicare. Sarebbe una farsa, ma in realtà era una tragedia vera e propria, perché una persona veniva assassinata e chi l'aveva assassinato godeva della più assoluta impunità, perché l'emergenza era cominciata. Era cominciata a Piazza Fontana e in nome della legge reale tutto era concesso. Mi spiego. E allora questi opuscoli, e poi ci furono tanti materiali, tante collane, prima che Stampa Alternativa diventasse più casa editrice strutturate, io vi parlo già degli anni 70, perché poi io ho visto Marcello, ma raramente, ci siamo rivisti in occasione di alcuni concerti promossi da Stampa Alternativa, perché Stampa Alternativa sull'onda delle controculture, promuoveva anche molti eventi musicali. Per esempio, ho ricordato prima Welcome to the Canteen dei Traffic, i cui proventi erano a beneficio di Oz per il processo che avrebbe subito da lì a poco. Stessa cosa, in poche parole, fece Stampa Alternativa, fece un storico concerto per la depenalizzazione delle droghe leggere. Piazza Navona a Roma, 50.000 persone, gratuito, con Henry Cow Gong è un altro gruppo di cui mi sfugge adesso il nome, insomma un mega concerto. Però Stampa Alternativa aveva curato pure i piccoli concerti, ricordo il tour dei Gong, David Allen, Gong nel piccolo stadio del Barletta Calcio in Puglia. Piccolissimo concerto, no? Fatto anche nella provincia, nella periferia del mondo, al di fuori, al di là dell'impero, come dire. E quindi questa è una complessità che Stampa Alternativa ha saputo sicuramente racchiudere. E poi il fatto di aver dato a tutti la possibilità di avere un direttore responsabile. Io penso sia una delle cose che noi dobbiamo ricordare. Marcello, che non era d'accordo, io vi posso dire con me, che sono stato sempre un militante, sempre nei processi politici, eccetera, eccetera. Lui non aveva quella posizione, vi ho detto qual era la sua formazione, però lui dava a tutta la possibilità di avere un direttore responsabile. No. Perché anche se la legge sulla libertà di stampa offende le nostre coscienze, eccetera, eccetera, noi non priveremo mai nessuno. Almeno però lui diceva, mandatemi una copia, almeno so di che morte devo morire nel momento in cui sarò processato, almeno conoscerò le imputazioni, se no non posso neanche difendere, perché poi molti avevano preso il suo nome, dicevano direttore responsabile Marcello Baraghini, perché lui è iscritto all'albo dei giornalisti e quindi era diventato, e quindi diede, come a tutti diede attraverso un escabotage, no? La possibilità di essere fotoreporter dell'agenzia Stampa Alternativa con la tessera, no, da fotoreporter rilasciata dall'agenzia Stampa Alternativa a mezzo del suo direttore responsabile, che era veramente Marcello Baraghini, che attestava che si trattava di un fotoreporter di quell'agenzia. Quindi uno la poteva esibire in un concerto, in un'assemblea pubblica, non lo so, allora quando si discuteva di un processo, in un'aula di tribunale, quindi in tutte le occasioni in cui i giornalisti potevano recarsi. Poi stava, come dicevano loro, all'intraprendenza, anche se usavano un altro termine, riuscire o non riuscire a portare a termine il servizio, quindi a entrare anche, no? E quindi Stampa Alternativa ha avuto questa possibilità. E adesso però devo dire necessariamente qualcosa dei punti rossi, no? Avrei voluto che la dicesse Renato. E quella è stata un'esperienza dei punti rossi straordinaria, che è iniziata nei primi anni 70, e io ricordo bene il giorno della conclusione, no? Quando c'è stato nel 1985 luglio il Live Aid allo stadio di Wembley, la maratona musicale organizzata da Bob Geldof, che io non dimenticherò mai, perché non perché mi interessasse, io ricordo con molto più piacere i Free Festival, non quegli eventi spettacolari, mi interessava molto poco, anzi per niente, detto tra noi, però mi colpisce il ricordo, perché è il giorno che noi smantelliamo in via Cicco Simonetta 11 i punti rossi a Milano. Dico io, Renato e alcuni compagni e compagne tedesche che diedero una mano per riempire un tir il primo giorno, un secondo tir il secondo giorno, per dirvi quanto materiale ci fosse in quel magazzino, che non era anche un luogo di aggregazione politica, di distribuzione, era una fucina per i saperi del movimento, anche per le discordie del movimento. Io ne ricordo parecchie discordie in quel luogo di movimento, ma c'era di tutto. C'era dalle riviste Potere Operaio, che a un certo punto venne distribuita addirittura in edicola, Potere Operaio del lunedì, no? Se voi prendete i numeri di Potere Operaio, io li li comprai, però il distributore di movimento Renato ne conservava sempre delle copie e c'erano praticamente tutte le riviste che sono state prodotte in quegli anni, a parte quello che Roberto vi ha fatto vedere, che erano pre 77, 77 post 77, perché vi ripeto, a metà degli anni 80 l'esperienza è cessata, perché noi abbiamo dato luogo a un bar libreria notturna che si chiamava Chimera, bar libreria notturna dove spesso veniva Alda Merini, no? Infatti nella sua biografia si ricorda molto la frequentazione di Alda Merini in via Cicco Simonetta numero 11, però non c'era più il deposito dei punti rossi. Adesso penso ci sia, hanno cambiato la destinazione d'uso, un appartamento di civile abitazione. E nelle praticamente sedi dei punti rossi, attenzione, ci sarà pure i punti rossi a Roma in via del Colosseo, però la sede centrale, principale, era Milano. E Milano forniva tutte le librerie, tutte, dobbiamo dire, no? E noi potevamo trovare dai giornali della sinistra rivoluzionaria i bollettini delle organizzazioni ML, il bollettino dei gruppi anarchici, Controinformazione, Primo Maggio, ma anche per fare una carrellata un po' come disordinata, come dire, ma il tempo non ci consente di dettagliare troppo, ma anche le ristampe dei giornali che avevano preceduto l'esperienza delle BR, per esempio, sono documenti straordinari quelli che sono stati ripubblicati. Noi abbiamo parlato del bollettino del Collettivo Politico Metropolitano, numero unico, pubblicato prima di Sinistra Proletaria e di Nuova Resistenza, che sono i giornali che anticipano l'esperienza BR, perché le BR non nascono dal nulla, avevano una militanza e un cammino politico che hanno anche sintetizzato attraverso dei passaggi, come dire, no? E i passaggi sono riscontrabili anche in queste pubblicazioni. E lì nei punti rossi Sapere distribuiva Nuova Resistenza e Sinistra Proletaria, il bollettino invece del CPM fu ripubblicato da Renato, una sorta di ristampa anastatica, fu un'idea geniale perché era assolutamente introvabile. Quella è la genesi, anche per uno storico, della lotta armata in Italia, delle ragioni che portarono poi alla scelta della lotta armata. Solo lì si trovano, non si trovano sui giornali, sui detrattori o sulle carte di un giudice in attesa di gloria mediatica. No, certamente non sono quelli i luoghi dove si può ricostruire quella vicenda. Le vicende, vedete, una cosa che si disse a un convegno del 77, non mi ricordo bene, a Firenze, alla Casa dello Studente, 77 o 78, per Pertini, le lezioni di Pertini, ecco perché ricordo questa cosa, del pentito Pertini, come definisco io, perché era passata a tutt'altra ideologia quando divenne presidente, no? Della Camera, no? E fu la... ho perso un po' il concetto che stavo dicendo del convegno dei punti rossi, quando qualcuno parlò, ecco, mi sono ricordato, della necessità di ripristinare un rapporto con le fonti. Per avere conoscenza è necessario, forse fu Ermanno Gallo, se non ricordo male, a fare questi interventi, a ricordare la necessità del rapporto con le fonti. Senza rapporto con le fonti noi avremo una comunicazione mediata, avremo una comunicazione distorta, stravolta molte volte strumentalmente, ma anche per ignoranza assoluta di chi scrive di queste cose. Quindi se uno realmente vuole restituire un senso storico alle cose deve recuperare le fonti. E il grande lavoro che è stato fatto, non soltanto a livello di distribuzione ma anche di recupero delle fonti, è stato fatto nei punti rossi. Quello è straordinario, io penso, perché tutti quei materiali sono arrivati ai nostri giorni e sono arrivati per ricostruire una vicenda che per molti è oscura, non è assolutamente quella la storia. Lasciamo perdere il giudizio, che è altro il giudizio. Io sto parlando della vicenda storica, della sua ricostruzione. Uno può dire qualcosa di diverso a distanza di 30 anni, ma non può negare l'andamento storico di un fenomeno. I dati obiettivi della storia non li può negare, anche se sappiamo che poi la storia la scrivono i vincitori. Ma nei Punti Rossi c'era pur tanto altro materiale, c'erano i materiali che venivano pubblicati da editori come Macchina Libri, no? Come i Libri Rossi, ad esempio, no? Che i Punti Rossi poi distribuivano. Era molto importante. Io che mi sono sempre occupato di processi politici, La zecca e il garbuglio di Giuliano Spazzale per Macchina Libri, così come erano molto interessanti i Libri Rossi. Noi in Calabria avevamo un grande compagno che era stato uno dei fondatori di Servire il Popolo, Enzo Lo Giudice, che aveva scritto su De Rivoluzione, che era stato difensore nel processo dei NAP, aveva difeso noi quando eravamo stati arrestati per l'autonomia calabrese, eccetera, e tanti altri processi politici, no? Anche se poi difese pure Craxi, ma nessuno è perfetto, che vi devo dire. Anche se mi disse una cosa, che voglio riferire. Io disse, Enzo, ma come, difende Craxi? Lui mi disse, vedi, quando tutti lo osannavano, io non ho mai accettato la difesa di Craxi, anche in processi minori, mai. Adesso che tutti lo disprezzano, io lo difendo. Era una posizione alla Vergès, potremmo dire, no? Di Jacques Vergès, l'avvocato du diable, no? Francese, che osò difendere addirittura il boia di Lione. Io non sono stato mai d'accordo però su questo, ve lo dico molto serenamente, Klaus Barbie. E questa cosa consentì anche ai Punti Rossi di avere materiali propri da far circolare, di distribuire. Però c'erano le cose pure più underground, sempre per fare una carrellata molto rapida, come erano gli opuscoli, le riviste, i libri della critica radicale, molto presente nel movimento e molto presente nel deposito dei Punti Rossi. Parlo di Puz, Gatti Selvaggi, ma anche per la critica, scusa, consentimi di dire che non ho condiviso una parola, no, per la critica del terrorismo di Sanguinetti, non condivido una parola. Io lo dissi in un bar a Piazza Sant'Eustorgio e lo ribadisco anche in questa sede. E capisco anche il disappunto, per usare un eufemismo, dei compagni francesi allora quando lui si recò in Francia. Non dico nient'altro più, comprendo il disappunto. E queste cose che erano assolutamente difficili da reperire, come pure le pubblicazioni di cui abbiamo parlato l'altro giorno, di cui ha accennato pure Roberto, il buco, diciamo giornale fatto dai compagni di Putignano, provincia di Bari, critica radicale in Italia, sicuramente fra i più attivi in quel settore, che pubblicarono poi il libro di Émile Maransen, Dalla preistoria alla storia, che era la prefazione nell'originale del libro La banda Bader, pubblicato da Bertani in Italia, con prefazione di Luciano Della Mea. Cosa c'entrasse Luciano Della Mea non l'ho mai capito, però vi confesso che non ho capito neanche cosa c'entrasse Maransen e la critica radicale con la RAF, la storia della RAF. Mi rimane incomprensibile. Certo è meritorio aver riportato alla luce quelli. Ma c'erano anche i piccolissimi opuscoli di Gennaro De Candides, GDC di Caserta e Libri. Piccolissime edizioni, microtascabili. E bei libri anche fece, ma pochissime copie, difficilissime. Oppure i libri dell'amico bordighista Valentino Campi, della vecchia talpa, no? Sì, International, era Fasano, giusto. Vedi, Valentino che fece l'Urtex col testo tedesco a fronte, opere mirabili di questo compagno che aveva conosciuto Bordiga, che era poi fra l'altro un amico di Renato, col quale abbiamo convissuto qua in via Conchetta, quando io vivevo a Milano negli anni Ottanta. Era una persona esplosiva e straordinaria, però per dire che poi si mise a tradurre gli opuscoli comunisti per la Yakabuk, perché Yakabuk faceva questa opera di demolizione del PC e di esaltazione di tutto ciò che non rientrava nel PC, quindi Tito, quindi Fidel Castro, quindi gli anarchici e tutto ciò che si era contro. I nemici dei tuoi amici sono miei amici, come si potrebbe dire, no? E quindi anche questo materiale. E questo materiale ha continuato a proseguire, a parte Controinformazione, che addirittura arrivò in edicola, abbiamo ricordato oggi con Roberto. Noi dobbiamo pensare solamente al salto. Quando Controinformazione, senza voler dimenticare Rosso, Senza Tregua, i giornali dell'autonomia, i giornali forti dell'autonomia, che vendevano oltre 5.000 copie a numero, no? Per dire, no? Poi Primo, e questa cosa ve la devo dire, un giorno in Calusca, quando era al numero 100 di Corso di Porta Ticinese, disse: non riusciamo più a incassare un soldo dalla vendita, ma d'altronde i 5.000 che ci sopportavano sono tutti in galera. Quindi adesso ci tocca mandarcelo e non possiamo chiedere loro certamente soldi, semmai siamo noi che glieli dobbiamo dare. Per dire anche lo stato delle cose, come poi anche il riflusso, a parte i problemi interni al movimento, anche quanto il discorso della repressione abbia inciso. E noi non dobbiamo dimenticare neanche le perquisizioni che furono fatte nelle sedi delle riviste come Controinformazione. Se voi prendete qualche numero, no, degli anni 70, quando praticamente anni 80, entrerete nel mondo della devastazione e saccheggio operato dalla polizia, detto che è un titolo di reato che la polizia adopera contro i manifestanti. Io dico la devastazione e il saccheggio operato nella sede di Controinformazione negli anni 80 dalla polizia nel corso di una perquisizione, devastando letteralmente tutto, voi lo vedete perché è documentato fotograficamente. Quindi questo, anche questo ha inciso, hanno inciso gli arresti dei redattori pure, no? Tutti i redattori, direttori responsabili hanno conosciuto il carcere o l'esilio, per dire. E quindi questo ha avuto un'influenza, perché il destino, vedete, delle riviste, delle strutture, è stato il destino del movimento, come il destino dell'underground o della stampa alternativa in Italia è stato il destino dei beat, degli hippie italiani. Cioè non erano due cose disgiunte, non era il giornale borghese che si occupa di un fenomeno underground, non era l'occhio estraneo che guarda dentro le realtà di movimento, era il movimento che attraverso i suoi occhi si rappresentava nella modalità che riteneva più idonea per far capire le proprie istanze. Ed è proprio questo il meccanismo. Le fonti, in poche parole, arrivavano direttamente, in questo senso, senza mediazione alcuna, a parte il discorso organizzativo di cui abbiamo parlato, seppur brevemente, a destinazione, perché erano le fonti sostanzialmente quelle che potevano ricostruire, dimensionare quella realtà in movimento, e non era nei media, non era il sistema che avrebbe potuto farlo, tantomeno si voleva che lo fosse, che lo facesse, no? Questo è un discorso che secondo me va tenuto presente, l'aver resistito, no, all'assalto mediatico, aver conservato fino alla fine, finché è stato possibile, un'identità, una soggettività, una specificità che solo all'interno del movimento si poteva dare. Grazie. Grazie a te Giancarlo. Ecco, chiaramente stasera non abbiamo potuto far altro che dare dei frammenti di un quadro che è estremamente complesso, perché riempito di un'infinità di vite, nelle loro diversità, nelle loro aspirazioni, nei loro percorsi anche contraddittori. La gran parte dei materiali, delle fonti di cui si è parlato questa sera, sapete che sono disponibili in archivio, quindi per chi volesse approfondire, oltre alla possibilità di eventualmente organizzare un altro momento di confronto, di racconto, se volete, comunque c'è la possibilità di accedere, e questa è un'altra articolazione di quello sforzo di fornire le voci e le esperienze sociali, di quel minimo di strutture di servizio per far sì che non viga solo il tempo della storia ufficiale, le scansioni che stabilisce tra un prima e un dopo e le fratture, che certo fratture ce ne sono, ma come mi piace sempre di dire, finché ho una storia da raccontare non sono veramente finito. Ecco, adesso se ci sono domande, interventi, considerazioni, si può andare avanti. Altrimenti so che voi dovete fare anche la vostra riunione, quindi insomma, però c'è ampia possibilità di riprendere il discorso quando vorrete.